Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Oggi vi promettiamo un'altra puntata d'eccezione e assolutamente speciale del programma. Tre saranno infatti i nostri ospiti, due compositori di rango internazionale, uno giovane ed espatriato, un altro invece senior e affermato sulla scena italiana ed europea. Insieme a loro ci sarà anche un ministro, Giorgia Meloni della PDL, che da 2 anni si occupa proprio dei problemi dei giovani in Italia. Una puntata tutta giocata a cavallo tra la musica, la cultura e l'emigrazione dei giovani professionisti. Già, perché se volete è proprio un bel paradosso quello italiano. Il paese culla dell'arte mondiale sembra aver dimenticato i suoi giovani artisti di talento. Molti di loro emigrano verso paesi dove i fondi per la cultura non mancano. Perché? Ha un senso dedicare la propria vita alla musica in Italia? Sarà una mezz'ora da non perdere. Stay tuned. Quello che credo che manchi un sistema un po' trasparente, meritocratico, che aiuti un po' i giovani ad emergere attraverso concorsi, commissioni, spazi professionali riservati, diciamo, ai giovani under 30. Oscar Bianchi, 35 anni, è un compositore che vive tra Europa e Stati Uniti. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Presentato dalla Commissione europea, il programma Youth on the Move, un'iniziativa comunitaria destinata a consentire a 5 milioni di giovani europei attualmente alla ricerca di occupazione di acquisire le conoscenze, le abilità e le esperienze necessarie per trovare il primo posto di lavoro. 28 le azioni chiave previste, tra queste l'attivazione di un sito web, un progetto pilota collegato al portale Eures e un sistema di monitoraggio delle offerte di lavoro su scala europea. Info su europa.eu/youthonthemove. Sempre la Commissione ha reso noto che 5 milioni di giovani europei sono disoccupati e il 40% di chi lavora ha contratti temporanei. Per Bruxelles troppi giovani sono bloccati in una successione di lavori precari. Questo provoca un mercato a doppia velocità in cui i giovani non hanno possibilità di fare passi in avanti verso contratti più stabili. Cresce intanto a Milano la quota degli under 30 senza lavoro. Secondo uno studio della CGIL, ben il 15,8% di loro nel milanese e provincia è disoccupato. Molto colpiti i laureati. Solo il 63% trova infatti un'occupazione entro 2 anni dalla fine degli studi. E l'Italia è stata bocciata dall'agenzia interinale Manpower nella sua indagine sulle prospettive occupazionali e sulla creazione di impiego. In Europa siamo penultimi, davanti solo alla Grecia. Volano Cina e India. E i giovani italiani appaiono in fuga anche dal mondo d'impresa. Il basso tasso di crescita e la crisi economica hanno ridotto il numero di giovani imprenditori under 30, scesi dai 278.000 del 2002 ai 212.000 del 2010, meno 24%. L'indagine è di Confcommercio, che denuncia la riduzione di forze giovani nell'imprenditoria riduce la possibilità di crescita del paese. Ed è in corso a Venezia il 54esimo Festival Internazionale di Musica. Obiettivo della rassegna è unire giovani talenti e orchestre affermate. Per il presidente della Biennale, Paolo Baratta, puntiamo sui giovani, altrimenti nel paese con più conservatori e accademie al mondo si corre il rischio di ridurre la macchina della formazione in una macchina che gira a folle. Oggi, come vi abbiamo anticipato, è una puntata speciale del nostro programma e dobbiamo purtroppo per questo sospendere la nostra rubrica Job Abroad, che torna però sabato prossimo con nuove offerte di lavoro dall'estero. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta a Parigi, in Francia, ma in realtà il protagonista di questa puntata è a tutti gli effetti un cittadino del mondo che si muove e lavora tra Europa e Stati Uniti. Nome: Oscar. Cognome: Bianchi. Età: 35. Città di origine: Milano. Studi: musicali, in composizione, direzione, piano e musica elettronica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2003. Per andare dove? A Parigi. Perché? Per un master in nuove tecnologie applicate alla composizione all'IRCAM Centre Pompidou. Quale lavoro svolgi attualmente? Compositore di musica. Dove? Un po' dappertutto nel mondo. Tornerai? Temo di no. Ia. Le note e i vocalismi di Matra, cantata per ensemble strumentale, ensemble vocale, trio concertante ed elettronica. Comporla proprio Oscar Bianchi, il cui biglietto da visita vi abbiamo appena fatto ascoltare. Oscar, tu affermi, in Italia comandano tre tipologie di persone: i vecchi con i loro piccoli orticelli da difendere, i politici o chi è da loro appoggiato e chi ha i contatti giusti. Il sistema è talmente marcio che tutto funziona con lo scambio di favori, il do ut des, un sistema interamente basato sullo scambio di potere, è scritto a giovanitalenti@radio24.it. e dal quale, hai aggiunto, i giovani sono tagliati fuori perché non hanno nulla da offrire al di fuori del proprio talento. Partiamo da qui, da questa tua affermazione. Oscar, ci sono voluti oltre 2000 anni di storia per arrivare a questa situazione? Sì, insomma, le mie affermazioni sono abbastanza forti, però ovviamente hanno a che fare con una fetta specifica della società, ma quello che credo è che manchi un sistema un po' trasparente, meritocratico, che aiuti un po' i giovani ad emergere attraverso concorsi, commissioni, spazi professionali riservati, diciamo, ai giovani under 30. In sintesi, opportunità di collegamento tra studi e professione. Oscar, tu per i parametri italiani hai solamente 35 anni, ma in questa tua carriera così rapida, quante performance e opere hai già prodotto a livello internazionale? Qualche centinaia di performances e diversi lavori. Questa cantata di cui avete sentito l'estratto, due grandi brani per ensemble con Klang Forum e Ensemble Modern, e una prima sinfonia con la Philharmonique de la Défense che sto attualmente provando qui a Parigi. Io intanto do il buongiorno e il benvenuto al compositore Giorgio Battistelli, con cui avvieremo tra poco il dibattito. Buon pomeriggio. Buongiorno. Oscar, torniamo alla tua storia e partiamo dai tuoi studi per raccontarti un po' più a fondo. Dopo il liceo scientifico ti iscrivi al Conservatorio di Milano, perché e quale ricordo hai di quella esperienza? Mi iscrivo al Conservatorio di Milano perché è l'istituzione musicale più prestigiosa nella città di Milano, insomma nell'area della parte del nord Europa, insomma è uno dei posti migliori dove si possa studiare e prendere la musica. La fine della tua esperienza in conservatorio, Oscar, che è avvenuta con 2 anni di anticipo rispetto al cursus studiorum normale, ti porta poi a guardarti intorno, come succede per molti tuoi colleghi che studiano musica, composizione. Non è facile per te trovare occasioni in Italia, arriva così, chiamiamolo pure, un salvagente dall'estero. Prima una commessa dalla Svizzera per scrivere appunto una composizione e poi anche la possibilità di andare in Francia. Sostanzialmente sono partito in Francia per motivi di studio e poi come conseguenza ho trovato un mondo dove le opportunità esistono e la possibilità di trasformare uno studio in una professione è semplicemente possibile. Sei andato all'IRCAM di Parigi, no? Che è un ambiente particolare, no? Sì, insomma è un ambiente dove la ricerca, la creazione, la creatività legata alla composizione, alle nuove tecnologie fa parte del quotidiano ed è un interesse accettato, diciamo, culturalmente e socialmente. L'attività che si ha in quanto compositori e ricercatori nel mondo della musica, sia acustica che elettronica, diventa un fatto serio, un fatto dignitoso e un fatto con cui farne un'esistenza, la propria esistenza, la propria professione. Oscar, una cosa importante, qual è la differenza tra Italia e Francia nel campo della valorizzazione del talento musicale? Tu dici e scrivi che in Francia, ma in altri paesi europei pure, ci sono persone, entità, istituzioni disposte a investire soldi, denaro nei giovani talenti della musica. Quando si parla di investire soldi, denaro, anche adesso pensandoci con la lingua italiana, sembra quasi un lusso. In realtà bisognerebbe più metterlo in termini di come si può considerare che la cultura e la musica sono parti fondamentali del tessuto connettivo di una società, di una civiltà, per cui non c'è niente di straordinario nel farlo. Parlo di appunto di paesi come la Francia, il nord Europa, la Scandinavia, la Germania. Oscar, pochi anni dopo tu compi il salto alla Columbia University di New York, dove avvii il dottorato. Come ti si è presentata questa opportunità e com'è stato l'impatto con la Grande Mela, soprattutto dal punto di vista artistico? La Columbia ovviamente è un'università prestigiosa, quindi l'accento si pone soprattutto nel mondo accademico per quanto riguarda gli Stati Uniti, e l'attività musicale è protetta, difesa soprattutto nelle accademie. Il mondo delle commissioni, il mondo, diciamo, il mercato, possiamo dire, della musica contemporanea non è facilissimo negli Stati Uniti, per cui l'Accademia interviene per proteggere, per fornire ai compositori, giovani ricercatori, l'opportunità di sviluppare il proprio linguaggio, il proprio mondo, la propria estetica. E a quel punto la tua carriera prende letteralmente il volo e si trasforma in una continua migrazione tra Europa e Stati Uniti. Ti riconosci in quella che viene definita spesso come generazione liquida, che non conosce barriere? È questa, secondo te, l'uscita di emergenza per i giovani che in Italia non vedono riconosciuto il proprio talento? È vero, da un certo punto di vista gli italiani hanno questa capacità che è la cosiddetta arte di arrangiarsi, e se per arrangiarsi significa che c'è un mondo in cui bisogna trovarsi i propri spazi, allora bisogna andare a cercare le opportunità dove le si trovano. E l'Europa continentale, escludendo l'Italia, è un punto di grandissima creazione e riflessione filosofica e intellettuale sulla musica, sulle arti, e ci sono enormi opportunità al di là appunto delle Alpi. gli Stati Uniti ha un enorme polo accademico che permette di sostenere, di difendere, di aiutare, incoraggiare i giovani all'attività intellettuale e artistica. Buongiorno a Giorgia Meloni, ministro della gioventù, e grazie di partecipare a Giovani Talenti. Ministro, tutti i maggiori indicatori suggeriscono che almeno 30.000 under 40, ma probabilmente sono il doppio, lasciano l'Italia ogni anno. Un flusso in uscita che si è triplicato nell'ultimo decennio, secondo dati Istat e Svimez. L'attrattività italiana verso i talenti stranieri giovani appare invece di gran lunga inferiore. Possiamo parlare di una emergenza? Possiamo sicuramente parlare di un problema che in Italia c'è circa la capacità di dare delle risposte a tanti giovani di talento che nella nostra nazione esistono. Noi non dobbiamo fare l'errore di considerare da questo punto di vista, diciamo, una risorsa l'immobilità, perché la mobilità è comunque una risorsa del nostro tempo. Cioè, noi parliamo spesso di ricambio generazionale, non ci rendiamo conto di come il ricambio generazionale non possa prescindere dalla qualità dei ricambi che mettiamo in campo, e sicuramente in quest'epoca infame, diciamo così, per le giovani generazioni, se ci sono degli elementi che possono invece rappresentare un elemento fortunato e di forza rispetto alle generazioni precedenti, tra questi elementi c'è sicuramente il fatto che noi siamo la prima generazione in massa europea, cioè la prima generazione che si può muovere con grande facilità a costi assolutamente ridotti e che può da questa mobilità imparare tante cose che poi può mettere a frutto per la propria esperienza. Il vero punto sul quale noi siamo, diciamo così, fallaci poi come sistema è come si fa a prendere questi ragazzi che anche in ragione di questa mobilità e di questi percorsi che fanno a un certo punto del loro lavoro si sono arricchiti e hanno raggiunto degli obiettivi importanti, a portare quella ricchezza sul nostro territorio nazionale, quindi a fare in modo che queste persone non se ne vadano per sempre. In Italia il grande problema che bisogna affrontare, il problema centrale, è che l'Italia è una nazione bloccata da rendite di posizione, che l'Italia è una nazione nella quale stenta a esistere un ascensore sociale, nella quale molta parte di quello che tu puoi fare dipende dalla tua condizione di partenza. Esatto. La prima sfida da affrontare è quella che banalmente si dice rivoluzione del merito, ma che poi altro non significa che costruire uguaglianza. Cioè, noi dobbiamo passare da una società che ha voluto che uguaglianza fosse il punto d'arrivo e passare a una società in grado di garantire uguaglianza al punto di partenza. C'è però anche un problema di spesa sociale per i giovani in Italia. Secondo dati Eurostat risulta pari allo 0,6% contro una media europea al 2,5%. In Italia non esiste un reddito minimo, mentre esiste in tutti gli altri paesi europei, Ungheria e Grecia escluse. E soprattutto il governo promette da mesi una riforma organica degli ammortizzatori sociali. Essere giovani in Italia non è semplice. Molti se ne vanno perché fondamentalmente all'estero trovano quelle possibilità anche di aiuto da parte dello Stato che in Italia non hanno. E questo è evidente, ma qui chiaramente c'è un problema di scontro generazionale, parliamoci chiaro, nel senso che noi abbiamo ereditato un'Italia grazie a una serie di generazioni politiche che si sono poste il problema di dare delle risposte solamente a quelli che andavano a votare nella prossima scadenza elettorale, fregandosene di quello che stavano lasciando nelle mani delle generazioni che sarebbero venute successivamente, per cui noi oggi paghiamo le pensioni di gente che se n'è andata in pensione a 40 anni negli anni belli dell'economia. Il punto è che si tratta di diritti acquisiti e il punto è che purtroppo, è sempre il discorso della coperta, lei mi cita gli ammortizzatori sociali e io le rispondo che questo è il primo governo nella storia della Repubblica Italiana che ha deciso di dare una forma stabile di ammortizzazione a circa 5 milioni di lavoratori atipici, che lei sa sono quasi esclusivamente, ma soprattutto giovani, investendo 9 miliardi di euro, mentre ne trovavamo 34 miliardi per gli ammortizzatori sociali. Io credo assolutamente che il tema del welfare complessivamente, connesso al tema del sostegno alla natalità, siano le due grandi tematiche quali è necessario, diciamo, investire le risorse appena noi usciamo dall'emergenza. Quando farete questa riforma degli ammortizzatori? L'avevate annunciata per dopo le elezioni regionali? Questo bisogna chiederlo, insomma, bisogna su questo ragionare in termini complessivi col Ministero dell'Economia e quindi, insomma, non posso prendermi io degli impegni che lei comprende. Però non è un tema fondamentale. Prendermi da sola. Io posso dire che è prioritario e per me prioritario vuol dire bisogna lavorarci immediatamente. Grazie a Giorgia Meloni, Ministro della Gioventù. Grazie per essere Grazie intervenuta a Giovani lavoro. Talenti. Un'ultima domanda ora per Oscar Bianchi, che ci deve purtroppo lasciare per partecipare a delle prove musicali. Oscar, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti? Come? Ma l'Italia dall'estero resta, da un punto di vista risorse, un paese estremamente dinamico, da un punto di vista opportunità un paese estremamente decadente e scarso. Ci vorrebbero degli investimenti in progetti di sviluppo per i giovani che consentano ai giovani di passare dallo studio alla professione, valorizzarli a seconda delle loro capacità e del loro merito. Grazie a Oscar Bianchi. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Oscar Bianchi, giovane compositore 35enne diplomatosi al Conservatorio di Milano. Oscar ha iniziato in questo decennio una fulminante carriera musicale che lo ha portato prima in Francia, poi negli Stati Uniti, a cavallo tra due continenti, alla ricerca di quelle occasioni professionali che in Italia vengono troppo spesso precluse ai giovani di talento che intendono coltivare la passione musicale. Con noi a parlare della sua storia c'è il compositore Giorgio Battistelli, tra i più conosciuti sulla scena internazionale. Allora, professor Battistelli, la storia di Oscar è paradigmatica forse di tante altre storie di giovani compositori italiani di talento? Direi che corrisponde esattamente alla storia di tantissimi altri compositori, per restare nell'ambito della musica, di tanti altri compositori italiani. Però è anche vero che, non per essere bastan contrario, che forse dovremmo ridimensionare questo entusiasmo per una forma di esterofilia, cioè che tutto quello che accade fuori è straordinario. Ecco, su questo lo dico per esperienza, mi sembra che forse le cose non stanno esattamente come appaiono a una prima lettura. È vero che in Italia ci sono queste tipologie, diciamo, di come viene gestita la musica in Italia, no? È vero, io credo che il concetto di vecchio, ecco, del vecchio operatore, del vecchio organizzatore, il vecchio non è un concetto legato al tempo, non è un vecchio anagrafico, è un vecchio di testa, di pensiero. Assolutamente, sì. È qui che noi siamo carenti in Italia, non c'è stata una crescita culturale. Non è che un sovrintendente, un direttore artistico di 40 anni mi garantisce più di uno di 70 anni e che mi garantisce un'apertura, un'attenzione maggiore ai giovani talenti o alla musica del nostro tempo. Ecco, questa garanzia non c'è, quindi mi sembra una formula forse troppo superficiale, un po' facile. Un po' per semplificare, se vogliamo. Semplificare e dire, beh, è un paese di vecchi. Non è vero. Questo è però vero portato che molte istituzioni italiane, ma anche è vero che molte istituzioni europee stanno in mano a persone però non in Italia giovani. Questo ha portato a delle distorsioni, ciò è innegabile. Cioè, la gerontocrazia imperante in Italia è chiaro, da fatti è evidente, di ma esistono anche delle chiusure. Ci sono da tantissimi anni, ci sono direttori artistici in Francia che gestiscono il proprio festival da 20 anni, come in Inghilterra, come in Germania, soltanto riescono a farlo con un'apertura, con un'attenzione, direi tridimensionale, su quello che accade nel nostro presente. Questo è importante. Battistelli, le faccio una domanda a bruciapelo, ma il mercato musicale in Italia premia i giovani di talento? Il mercato, forse non c'è un vero e proprio mercato, noi siamo in una fase ancora precedente rispetto agli altri paesi, siamo ancora legati fortemente al cosiddetto evento. Pensavo 10 anni fa che fosse semplicemente una stagione, quell'attrazione verso l'evento, invece purtroppo siamo ricaduti in questa, in maniera trasversale anche da un punto di vista politico, di gestione delle istituzioni musicali, culturali italiane. Non c'è diciamo il coraggio del rischio, dell'investimento, e allora si ricade sempre su qualcosa di già conosciuto, per cui sono sempre gli eventi che continuano ad avere un terreno facile in Italia. Lei quanti giovani ha visto espatriare, compositori, musicisti? Ma tantissimi, io stesso ho studiato alla Musikhochschule di Colonia, 2 anni a Parigi, sono stato un anno a Berlino, ne ho incrociati tantissimi, anche su questo però a un certo punto anche io ho avuto occasione di restare fuori, di andare, di continuare a girare, però lo dico con molto orgoglio, poi ho detto, beh, insomma, io voglio continuare a costruire, a cercare di costruire in Italia piuttosto che star fuori. Questo lo so benissimo che è un lavoro molto più duro, molto più faticoso, ma d'altronde lo dicono tutti. Qui. Sono un po' stanco di dire fuori tutto funziona e in Italia tutto non funziona. E però quando lei dice fuori tutto funziona, a me ha colpito molto ciò che diceva Oscar, cioè ci sono paesi dove si investe in cultura, dove fare musicista o compositore non è considerato un hobby come in Italia. Perché c'è questa sensibilità fuori e qui no? Perché c'è stata una crescita, una sensibilizzazione culturale. Noi continuiamo a chiamare, noi abbiamo una cultura dello sponsor, mentre nei paesi anglosassoni c'è una cultura del mecenate, che appartiene più a noi che a loro, ma noi l'abbiamo dimenticata. Io insegno alla Holborn School di Londra, e lì addirittura i banchi dove studiano gli studenti o le poltrone dell'auditorium portano una targhetta con il nome della famiglia che ha donato il denaro per l'acquisto di quella poltrona o di quel tavolo. Da noi si ritorna alla cultura invece più di uno sponsor che deve avere visibilità nel momento in cui partecipa alla realizzazione di un progetto. Lei nel suo sconcerto attualmente in scena e di cui ha firmato le musiche porta in scena appunto un senso di smarrimento e di straniamento. C'entra una visione dell'Italia contemporanea, attuale in quest'opera? Sicuramente, anche qui non credo, forse noi questa sconcertazione lo viviamo in maniera molto più forte rispetto agli altri paesi, ma è uno sconcerto per la narcosi a cui è sottoposto il nostro spirito, il nostro corpo. Cioè, avvertiamo a volte un senso di insensibilità, non riusciamo più a capire quello che avviene intorno a noi. Purtroppo Oscar Bianchi ci ha dovuto lasciare perché è scappato a fare delle prove musicali, ma giro a lei la domanda, è solitamente giro in chiusura di intervista ai nostri giovani espatriati. Anche lei è stato espatriato e quindi probabilmente può dare dei consigli. E il consiglio proprio a quei giovani che magari in questo momento si trovano in difficoltà, magari anche giovani musicisti e che stanno pensando tra le varie vie d'uscita anche a un espatrio. Quale consiglio darebbe? Guardi, il mio consiglio, avendo fatto anche per 16 anni il direttore artistico, è quello di avere mi dispiace perché sembra un'affermazione banale, ma spero che non appaia, è quella di credere, di avere fiducia nell'oggetto che si propone. Di avere fiducia nelle cose che si fanno, perché bisogna smetterla di pensare che ci sia sempre un complotto all'esterno, che le cose sia un po' una sindrome di non essere capiti, di non essere compresi, che ci sia sempre bisogno di un appoggio, di una conoscenza, di un canale privilegiato. Quelle esistono, ma questi canali, questi appoggi, queste conoscenze, glielo assicuro che esistono a Londra, come a Parigi, come ad Amsterdam, come a Mosca, come a Lisbona, nel settore della musica. Uno deve avere non l'ossessione di chi poter conoscere per essere aiutato, ma in che modo scrivere una musica che abbia una motivazione e un potere, la potenza interna così forte che gli permette di andare fuori il perimetro nazionale. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi andiamo a Shanghai, dove conosciamo un portale che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento, anche sociale, nella capitale economica della Cina. Michele Soranzo, cofondatore ed editor di Vivi Shanghai. Io sono arrivato a Shanghai nel 2002 e a quel tempo c'erano ancora qualche centinaio di italiani. Poi intorno al 2004-2005 ha cominciato ad arrivare molta più gente, per cui siamo passati dalla popolazione italiana di qualche centinaio a qualche migliaio. E da lì è nata l'idea nel 2005 di realizzare un sito in cui raggruppare con eventi o ritrovi, insomma, più gente possibile. Quali sono un po', diciamo, i servizi che il sito offre alla comunità italiana di Shanghai, cioè anche a livello pratico? I servizi che offre il sito sono di due tipi: uno per residenti, cioè chi abita già qui, in cui ovviamente sapendo già, insomma, come muovere, possiamo limitarci a offrire soprattutto servizi quando hanno o clienti in arrivo oppure parenti in arrivo. E poi gli altri servizi invece sono per gli italiani che non sono residenti, quindi sono in Italia, arrivano qui o per business o per turismo o per altri motivi, e quindi noi li orientiamo il viaggio, ecco. È anche un luogo di ritrovo, se vogliamo, per la comunità italiana? Sì, noi siamo partiti 4 anni fa organizzando un aperitivo in un ristorante italiano. Adesso di aperitivi ce ne sono anche troppi, diciamo che hanno a che fare con il nostro sito, ce ne sono 2 alla settimana, il martedì e il mercoledì. Com'è la comunità italiana a Shanghai? È ovviamente una, lo dicevi tu, una città, un approdo nuovo, tra virgolette, per noi, però in crescita. Sì, è in crescita, vabbè, ha avuto un periodo di, non dico calo, però di stasi nel periodo della crisi economica, insomma, quando tanti hanno dovuto lasciare il lavoro qui, specie le grandi aziende italiane hanno chiuso, hanno ridimensionato il personale, per cui tanti sono tornati in Italia. Però da 5 anni a questa parte, 5-6 anni, la tendenza è in crescita. La comunità italiana qui è molto varia, non ha solamente gente che lavora, non so, per aziende o in ufficio, ma anche, non so, dei musicisti, cioè degli artisti giovani, gente che arriva qui già con un lavoro, gente che arriva qui senza un lavoro e poi qui si fa un'esperienza o riesce a trovare comunque qualcosa, e quindi c'è una varietà assoluta per quanto riguarda la comunità italiana qui. Raccontaci un po' questa comunità di giovani italiani espatriati a Shanghai, perché arrivano, in quali settori lavorano? Ma guarda, ci sono settori, vabbè, a parte le grandi aziende, non so, può essere l'automobilistico, i componenti per auto che comunque fanno una buona parte del lavoro su questo aspetto. Poi ci sono persone che lavorano molto anche nel tessile, oppure in altri tipi di aziende per vari settori. Un po' interessante secondo me che architetti, ecco, tanti architetti che arrivano qui o per lavorare per altri studi, non per forza italiani, anche stranieri o cinesi. Secondo me è comunque interessante vedere che ci sono molti italiani che arrivano qui anche senza avere un'idea chiara di quello che faranno. Sentono, intravedono un mondo che si muove, quello che dicono in molti quando parlano della Cina. Ma quali sono i motivi che portano poi i giovani professionisti a lasciare l'Italia e a scegliere la Cina? Un po' può essere forse la stagnazione che c'è in Italia. Qui la Cina, almeno a vedere da fuori, dà un'idea di movimento, di dinamismo, che è anche vera. Qui c'è molta più possibilità di fare cose, di avere, concretizzare delle idee. C'è più possibilità per chi ha iniziativa, questo sì, è un po' come in Italia, non so, potrebbe essere negli anni 70-80, ecco, secondo me qui. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.vivishanghai.com. Oggi puntata speciale di Giovani Talenti, dobbiamo purtroppo sospendere lo spazio Intern Active che torna sabato prossimo con nuove discussioni e provocazioni. Intanto vi ricordiamo che per dire la vostra potete scriverci a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente le nostre discussioni. E potete anche interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.it sole24ore.com/blog/nava. Inviateci i vostri contributi che pubblicheremo online. Finisce qui dunque questa puntata di Giovani Talenti, aspetto i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.